la versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, giovedì 6 febbraio 2014, 16:35, primi 18 secondi. E vado subito all'argomento del giorno per consentirvi di riflettere. Se volete chiamarci all'800 24 00 24, è molto semplice. Vi chiediamo di esporci la vostra opinione sulla notizia che ieri sera, dopo le 8, ha fatto cambiare l'impostazione dei giornali. Obbligatoriamente ci hanno dovuto aprire tutti, cioè la decisione del Presidente del Senato, Piero Grasso, contrariamente all'indicazione che era venuta dal Consiglio di Presidenza del Senato, la decisione del Presidente del Senato di far costituire Palazzo Madama, cioè appunto il Senato, come parte civile contro Silvio Berlusconi nel processo per la compravendita dei senatori. E immagino sappiate le reazioni verticalmente divise che sono, hanno seguito la decisione del Presidente del Senato. Forza Italia insorta, gridando al trappolone, gridando al venir meno dell'intesa anche con Renzi, come è possibile pensare alle riforme convergenti se ci si accanisce contro Berlusconi. Viene disconosciuto da parte dei parlamentari di Forza Italia la facoltà, per così dire, l'opportunità, più che la facoltà, del Presidente del Senato di ribaltare la decisione che era stata assunta con un voto decisivo in Consiglio di Presidenza espresso da Linda Lanzillotta, senatrice per Scelta Civica. Linda Lanzillotta aveva spiegato di votare no alla Costituzione come parte civile del Senato contro Berlusconi per rimarcare meglio la separazione tra giustizia e politica. Tenete conto che la senatrice Lanzillotta aveva invece votato ed era stata anche in quel caso decisiva per le procedure di decadenza di Berlusconi, ma in questo caso aveva votato contro, e il Presidente del Senato però ha deciso diversamente. Come la pensate? Il Presidente del Senato ha definito un dovere morale quello di decidere comunque per la Costituzione a tutela dell'immagine del Senato stesso. Tenete conto che è iniziata da pochissimo anche la direzione del PD, è iniziata un'atmosfera abbastanza infuocata. Vi dico solo questo prima di presentarvi l'ospite, che alcuni parlamentari vicini a Renzi come Paolo Gentiloni hanno respinto come trappolone l'idea che sui giornali tra ieri e oggi è stata avanzata che Renzi possa sostituire Enrico Letta alla presidenza del Consiglio. Gli ha risposto subito Cesare Damiano dicendo: come sarebbe a dire, è un trappolone per Renzi e non è per Letta restare a farsi rosolare in queste condizioni? Allora, se è un trappolone per entrambi, ha respinto ipotesi di avanzata da Gentiloni Damiano, e allora andiamo a votare, non se ne parli più. Quindi c'è un'elevata attesa per i toni e la sostanza della direzione del PD in corso. L'annuncio iniziale di Renzi è stato che le misure sul lavoro, il cosiddetto Jobs Act, andranno a una direzione il 20 febbraio, quindi dovrebbe essere scaduto il tempo del rinvio, per così dire. Vedremo, ma intanto torniamo al punto del giorno, la decisione del Presidente del Senato Piero Grasso, ed è con noi per commentarla, spiegarci come la pensa lui, se c'è un'alternativa, se non c'è un'alternativa, o comunque che cosa può determinare la decisione del Presidente del Senato. È con noi il direttore del fattoquotidiano.it, del sito, che è una testata ovviamente che fa parte sempre dello stesso gruppo editoriale del Fatto Stampato, però Peter Gomez, che è con noi oggi pomeriggio, dirige il sito. Grazie di essere qui, Peter. Buongiorno a voi, buongiorno Oscar. Come la pensa Peter Gomez della decisione del Presidente del Senato? È una decisione obbligata. Perché obbligata? Non solo obbligata dal punto di vista morale e dal punto di vista dell'immagine dello stesso Grasso. Grasso, che ha una storia alle spalle di procuratore di Palermo, procuratore antimafia, giudice a latere del maxi processo, mai avrebbe potuto avallare una decisione che nei fatti non va, secondo me, discussa solo dal punto di vista etico-morale, ma anche dal punto di vista della convenienza, che dovremmo pretendere, secondo me, dai nostri politici, che se fossero almeno abbastanza furbi da fare quello che a loro conviene. Allora, in questo caso il mio pensiero ovviamente è che ci fosse un dovere etico, un dovere morale, ma al di là di questo inviterei i nostri politici, che tanto si battono contro questa Costituzione di parte civile, a pensare cosa può ricavarne l'opinione pubblica da tutto questo. Qui siamo di fronte a un processo per corruzione fondato o non infondato, lo sapremo solo al termine del processo. Sappiamo che bisogna chiedersi quale immagine può avere agli occhi dei cittadini un'assemblea in cui i voti, secondo l'ipotesi del PM, vengono comprati. Un'assemblea democratica, e non è una bella immagine, soprattutto in un paese in cui la credibilità della classe politica e dei partiti è scesa intorno al 4-5%. Allora, andare a seguire un processo come parte civile e al termine del processo decidere, far decidere i propri avvocati, i propri esperti, se ci sono elementi per chiedere la condanna o addirittura per chiedere la soluzione, perché la parte civile è libera di fare quello che vuole. Certamente. Non mi pare una cosa sbagliata, anche perché poi se volessero essere furbi, loro sanno tutti che questo processo è sostanzialmente prescritto, perché questo processo si reggeva e si giocava sul filo dei mesi. Notizia di oggi è che uno dei componenti del collegio, alla vigilia del processo, si è accorta di essere moglie di Laudati. Chi è Laudati? Laudati era il procuratore della Repubblica di Bari, che ha dovuto mollare la procura di Bari perché è stato accusato di avere, la dico male, insabbiato le indagini su Giampaolo Tarantini. Lei ha trovato alla vigilia del processo una possibile incompatibilità. Questo vuol dire che verrà riformato il collegio, riformeranno il collegio, si perderanno delle altre settimane o degli altri mesi e Berlusconi da questo processo ci esce. Il peggio che gli potrebbe succedere è che, come in altri casi, per esempio nel caso Mills alla fine è stato prescritto ma ha dovuto versare 250.000 euro, diciamo una pena pecuniaria che non sia stata prescritta. Io credo che l'immagine che esca, soprattutto per quei parlamentari, per esempio Linda Lanzillotta, che fa parte di un movimento che si chiama Scelta Civica, è difficile vendere ai propri elettori, se ce ne sono ancora per Scelta Civica, che è tutto da dimostrare, di essere civici non facendo una cosa del genere. Lei ha sostenuto stamane, la senatrice Lanzillotta, che con questa decisione in realtà il presidente Piero Grasso ha fatto prevalere la sua natura di ex magistrato su quale presidente del Senato. Ma io penso che semplicemente, estraendoci dalla figura di Berlusconi, perché ci rendiamo conto che il punto è che qua c'è della gente che si vuole, le prossime elezioni politiche, quando saranno, vuole correre in coalizione col centrodestra e quindi vuole dimostrare di essere bravo e affidabile. Al di là di tutto questo, non è vero. Il fatto che tu abbia un rappresentante nel processo, il tuo avvocato, non è obbligato a chiedere la condanna, ribadisco. Segue anzi da vicino il processo, a meno che non si pensi che davvero non leda il prestigio dell'istituzione il fatto che in quell'istituzione sia ammissibile eticamente che i voti dei parlamentari o i parlamentari vengano comprati. Se tutto questo è normale, per Linda Lanzillotta ha fatto benissimo a votare contro. Io penso che sia stata una furbata e che tutte le motivazioni che ho letto oggi nella sua intervista fossero una poco abile arrampicata sugli specchi, che ha il risultato finale è che Linda Lanzillotta verrà riconosciuta da molti elettori come quella che ha tentato di fare l'ennesimo favore che poi nemmeno serviva a Berlusconi, perché non è che il processo non glielo facevano senza parte civile. Io devo dirti che la mia opinione, conta niente, ma la mia opinione come osservatore è che non è tanto il principio generale, cioè io non sarei molto d'accordo con l'idea di una costituzione obbligata quando ci sono procedimenti penali con fronte dei parlamentari, ma concordo con l'osservazione di Peter Gomez, il tipo particolare di reato per cui si procede, si vedrà nel processo, avrete capito che tanto poi va in prescrizione, cioè quello della compravendita, è per così dire, ai miei modestissimi occhi di osservatore, la negazione di un principio fondamentale della libera formazione delle opinioni opinione ed espressione all'interno del Parlamento. Allora, ai miei occhi, un parlamentare, per il solo fatto che finisca sotto indagine per una cosa di questo tipo, cioè non è che è un'ipotesi di reato contro il patrimonio, contro una persona, no, è su un fondamento di credibilità e di prestigio, di democrazia del Parlamento. Allora, per questo io dico la verità, fossi stato membro del Consiglio di Presidenza, avrei detto, in ragione dell'ipotesi di reato, giudicheranno i magistrati, però secondo me ci sta. Il ragionamento di Gomez mi convince, cioè io questo lo dico tanto per chiarire a chi è in ascolto, non è che non mi voglio pronunciare. Naturalmente tutto cambia perché si dice è accanimento contro Berlusconi, però il problema è la natura del reato, la mia opinione è questa. La versione di Oscar. Eccoci, tornate in diretta a 16:46 e 53 secondi. Nel frattempo altre agenzie dalla direzione del PD. Renzi sembra voler far andare avanti il governo perché dice non ci possiamo fermare sulla legge elettorale. Poi ha fatto un passaggio che è una novità interessante questa, vedrete, perché dice: vedo alle elezioni non solo il simbolo del PD, ma anche di una formazione più moderata che non per questo accetta di entrare nel PD, che però non vuole stare dall'altra parte, e noi dobbiamo offrire a questi moderati, ha detto Renzi, una possibilità elettorale di rappresentanza. Questa è una mossa che io considero intelligente da parte di Renzi. Vedremo naturalmente quali saranno le reazioni. Allora, iniziamo con le prime telefonate, mentre è sempre con noi Peter Gomez, così gli facciamo commentare le vostre voci. Alessandro, che ci chiama da Macerata. Prego, Alessandro. Sì, sì, ciao Oscar. Io praticamente non sono del PD, però sono contento dell'iniziativa del Presidente del Senato, no? Perché io immagino questi... Mi senti? Sì, sì, poi vabbè, ti stiamo benissimo. Sì, io immagino questi senatori che si sono fatti corrompere, no? Che si sono venduti, hanno creato una destabilizzazione governativa praticamente, che poi è inevitabile che va a inficiare nell'ambito economico con lo spread, no? Perché perdiamo di credibilità con i governi che cascano, soprattutto in mezzo alla corruzione, e coi costi connessi poi con il discorso che ci sono le elezioni, no? Anticipate. Quindi non avresti avuto dubbio, diciamo così, è una cosa grave ai tuoi occhi, quindi non c'è niente di male. Quindi bisogna costituirsi parte civile, chi non capisce questo ha altri tipi di interessi del tuo. Sentiamo, vuoi aggiungere ancora? Sì, una cosina veloce, sì. Infatti... proprio su Sole 24 l'ho letto, no? Dell'autorità anticorruzione, sì. Questa corruzione italiana che non riusciamo a levare fuori, insomma, a buttare via, perché ancora non hanno nominato i nuovi componenti, quindi sta ancora ferma l'autorità nazionale anticorruzione da un anno. Sì, i giornali molte volte sono tornati su questo tema, per così dire. Non è proprio in cima, per così dire, a quanto pare nella priorità pubblica la lotta alla corruzione. Sentiamo Maurizio da Siracusa, prego Maurizio. Sì, buonasera. Buonasera. Io rimango veramente un po' indifferente su questa costituzione parte civile che serve soltanto per fare un pochettino di polvere e magari perché ci sia una corrente all'interno del Partito Democratico che voglia, come dire, isolare l'altra corrente del Partito Democratico. Questo anche si è letto sui giornali, la ringrazio che richiama questo aspetto. Però attenzione, insomma, è veramente fariseo adesso scandalizzarci per questa vicenda di Gregorio, il cui voto non è servito a niente, aver dimenticato la vicenda di Marco Follini, oggi stranamente tesserato al Partito Democratico e senatore Partito Democratico. Perché dice ha cambiato idea, ma sta ipotizzando che lo abbia fatto di fronte a un'ipotesi di denaro? No, Marco Follini ha ricordato. No. Denaro non si può dire, però esatto. Di Marco Follini che era segretario di un partito. Ah no, questo certo, lo ricordiamo tutti. Sì, per lui il voto. È un voto molto più pesante per sostenere allora Romano Prodi. No, Maurizio, ma per carità, la storia italiana di questi ultimi anni è stata piena di ribaltonisti decisivi, quindi per carità di Dio, l'ipotesi naturalmente è se poi sono comprati o meno. Lei sa che i parlamentari sono eletti senza vincolo di mandato costituzionale, quindi sono liberissimi di cambiare idea. Naturalmente, se gli assegni, lei capisce che se per ipotesi esistano, su questo si indaga, fanno cambiare sostanzialmente il quadro delle cose. Questa è la mia idea, ovviamente, perché uno può cambiare opinione, ma se viene pagato è diverso. Salvatore da Padova, invece, che ne pensa? Buongiorno, signor Giannino. La mia opinione è che si tratta. tratta di un caso in cui da un male volontario scaturisce un bene involontario. E qual è il male volontario? Il male volontario è un'azione messa in atto dalla Camera che vorrebbe, diciamo, per pura parte politica avversare il suo concorrente. Però scaturisce un bene involontario per la collettività, perché rabbercia in qualche modo un po' il prestigio del Senato. È bene che certi comportamenti siano severamente sanzionati. Occorrerebbe. Però lei ipotizza che in realtà nella decisione di Grasso, più che questo obiettivo, ci fosse la cosa personale contro Berlusconi, ho capito bene? Questa potrebbe essere un'ipotesi. Ecco. Ma, quello che volevo, che tenevo a sottolineare, è che andrebbe migliorata e di molto la legge La Torre, quella contro la mafia, andrebbe applicata anche ai partiti, ai dirigenti dei partiti. Io vorrei. No, aspetta un secondo. Cioè, dirigenziali dei partiti negli ultimi 20 anni si accollasse il debito pubblico. Nel senso che ho capito, però non è che mi può dire che i partiti politici sono associazioni a delinquere adesso, che ci li applichiamo. No? Guardi che se lei da solo ruba una mela, finisce in prigione. Per carità di Dio. Lei organizza 10 o 15 persone, fa un'organizzazione a delinquere. Se di persone ne organizza migliaia, fa un partito. Ho capito. Salvatore, lei sostiene l'idea che di fronte alle condizioni del paese bisognerebbe avere dei criteri proprio di portarli un po' a dei processi di Norimberga. Vabbè. Peter, l'idea che ti sei fatto è che nell'opinione pubblica la decisione di Piero Grasso sia maggioritariamente appoggiata, avversata o no? Io penso che sia maggioritariamente appoggiata, ma d'altra parte se lo dimostra cosa è successo alle ultime elezioni, i voti di coloro i quali hanno votato 5 Stelle, i voti di coloro i quali hanno votato centrosinistra sono un numero enormemente più grosso rispetto a quelli che hanno votato i partiti che sostenevano Berlusconi. Questo non vuol dire che chi ha votato ovviamente i partiti che sostenevano Berlusconi sia a favore della corruzione, perché questo sarebbe assolutamente sbagliato, ma c'è da parte di molti elettori un zoccolo duro che ha un rapporto di affetto fortissimo nei confronti di Berlusconi, che ritiene essere perseguitato, vittima di complotto, eccetera. Direi che però la maggioranza degli elettori, ce lo dicono nei sondaggi, ma i risultati dell'elezione la pensano esattamente in maniera contraria. È vero che però questo voto, la decisione di Grasso, rafforza il suo prestigio personale, certamente. In un momento in cui il prestigio personale del Presidente della Camera è molto basso anche nelle fila dei partiti che non hanno polemizzato con lei, ti ricordo che molti esponenti del PD, anche vicepresidenti, Giacchetti, hanno sostenuto che la Boldrini ha usato parole a sproposito quando ha definito eversiva l'azione del Movimento 5 Stelle, dicendo: ma se quella è eversione, cosa dovevamo dire negli anni 70 quando la gente sparava per strada? Giusto condannare gli insulti, ma manteniamo la barra dritta, cioè la terza carica dello Stato. Qua Grasso, rispetto alla sua immagine, ha battuto un ottimo colpo, sicuramente. Sentiamo come la pensa Nilla da Milano. Prego, Nilla. Sì, buongiorno Giannino. Senta, ma io avevo sentito dire che il Senato era considerato obsoleto e bisognava eliminarlo, no? Sì. E allora che cos'è questo onore del Senato? È di un'entità che poi va in... si vedrà se passa l'idea di Renzi di ridurlo a 150 indicati dalle regioni, però sa, il Senato c'è, siamo in regione di bicameralismo perfetto e quindi il Presidente del Senato ha ritenuto di tutelarla, la credibilità e il prestigio della Camera Alta, come si suol dire, visto i requisiti elettorali, età più anziana necessari per l'elettorato attivo e passivo. E quindi capisco Nilla che dice, però due paia di maniche diverse la questione su cui si è deciso ieri. Sentiamo Stefano da Vicenza, prego Stefano. Salve, grazie intanto di avermi dato la possibilità di parlare. E così voglio fare una domanda, magari anche così mi corregge se sbaglio. Allora, secondo me bisogna andare al voto comunque, no? E perché accettare quindi una legge, secondo me, elettorale, no? Fatta tra un pregiudicato come Berlusconi e un ex DC, secondo me, cioè non secondo me, ma come si sa, allora, un ex DC bruciato come Renzi. Questa domanda del patto col pregiudicato, giriamola a Peter Gomez. Come la pensi su questo? Bisogna, cioè, è censurabile Renzi perché ha fatto l'accordo con Berlusconi che è pregiudicato, o non c'è l'alternativa e ha fatto bene pur di averla una riforma? È censurabile se riduciamo, come sarebbe forse giusto fare, ai principi dell'etica o della morale, poi la politica, l'arte del possibile, l'accordo si poteva fare poteva farlo solo con lui. La mia impressione, prima di stavi dando una notizia, è che Berlusconi rimanga molto più furbo di Renzi. La legge che è uscita da questo accordo a oggi favorisce Berlusconi, perché Berlusconi è in grado di mettere insieme una coalizione. Ha un potere di coalizione molto maggiore. Molto maggiore, e già oggi, sommando tutti i partiti che si possono schierare con lui, più Casini che si è messo immediatamente al vento, lui prende più voti rispetto a Berlusconi. Per questo, secondo me, Renzi oggi inizia a rispondergli, perché io questo volevo dire all'inizio, perché ha capito che il Berlusca seppellito non è per niente, questo è il punto. Allora, eravamo d'accordo con Peter Gomez, io e lui, sulla decisione di Pietro Grasso. Io vi invito, voi che siete in ascolto, a capire che le cose hanno un senso in sé, non facciamo sempre solo i retroscenisti e cercare i doppi sensi e le ragioni. Quel Senato è gravemente pregiudicato se si comprano i voti, questo è il punto. Comunque, continuate su Radio 24, appuntamento con me a domani, grazie a Peter Gomez.